Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Mercoledì 19 giugno 2013, sono le ore 22. Buonasera a tutti da Blu Radio Veneto. E questa sera con un altro gruppo live che presenteremo subito tra pochi secondi. Un saluto al mio carissimo collaboratore, conduttore, enciclopedia musicale vivente, Maurizio Calzavara. Buonasera, grazie per l'enciclopedia musicale vivente. Non è vero, è solo una piccola enciclopedia, piccolina. Beh, stasera abbiamo anche Enzo Mosca, un'altra enciclopedia. Ciao Mosca, ciao. Ciao a tutti. Veramente questa sera sono in grandissima compagnia, però poi abbiamo anche lì Eleonor. Certo, buonasera, state bene? Ciao, buonasera. Avete fatto buon viaggio? Sì. Era breve, assolutamente breve. Allora li presentiamo per dovere di ospitalità subito. Marta Savoldo. Ciao a tutti. Alla voce. Simone Toniolo al basso. Buonasera. E Alessandro Crivellaro alla chitarra. Ciao a tutti. Chitarra ed effetti. E supporto vocale anche. Chitarra e laptop. Ecco, diciamo esattamente. Quindi prima di iniziare però vorremmo fare una cosa breve ma significativa. Ieri se n'è andato Claudio Rocchi, musicista che qui sono molto legato e tutta la radio è molto legato. Un nostro amico, abbiamo trasmesso molte cose di lui e lo abbiamo intervistato per parecchie volte. Se n'è andato e ha lasciato un vuoto incolmabile dal punto di vista mio musicale. Ha fatto delle cose meravigliose. Noi vogliamo ricordarlo con questo pezzo che va in onda da un sacco di tempo in questa radio, perché merita, un pezzo meraviglioso come tutti i suoi pezzi. Questo era Claudio Rocchi. Ciao Claudio. Ciao Claudio, tutto quello che ho da dire. Trovarti più in su, tu. adesso stai cantando. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Vi ricordo anche che la nostra emittente potete ascoltarla anche in streaming andando sul nostro sito www.bluradioveneto.it e cliccare sulle cuffiette rosse. Oltretutto potete anche interagire sulla nostra pagina Facebook Blu Radio Veneto Rockway e, se avete voglia, di far delle domande ai nostri ospiti. Maurizio, a te la parola. Eccoci qua, adesso partiamo, siamo ben scaldati. Non correva, fa tanto caldo oggi, ma ci siamo scaldati musicalmente parlando. Io ho sentito prima le prove della band, poi è arrivato Enzo, Gila era già presente, quindi adesso la trasmissione proprio inizia in questo momento. Come è nata Marta, Simone e Alessandro l'idea? Tu sei arrivato dopo. Sì. Alessandro e Marta, l'idea della band Ella Noir. Il progetto, l'idea, come si è sviluppata, l'input? Allora, è nato da un'amicizia fondamentalmente, perché io e Alessandro ci conosciamo da molti anni e abbiamo, a un certo punto non ci siamo più visti perché abbiamo preso strade diverse. Eravamo amici ai tempi proprio della scuola. Della scuola. Da quando avevamo 10 anni, praticamente. Patronato, quartiere, quegli anni lì, insomma, erano dei begli anni. E quindi... Anche adesso sono begli anni. Anche adesso sono begli anni, per gli adolescenti sì, per noi anche è sempre per noi, più dai. Dura. Anche per gli Ella Noir. Esattamente. E quindi niente, poi non ci siamo più visti e poi è capitata una delle classiche di classici pizze, ritrovi. Sì. E io avevo una cosa registrata da me in un piccolo supporto e lui gli ho detto: vuoi ascoltare? Fatalità, abbiamo iniziato a parlare, abbiamo scoperto che ascoltavamo gli stessi generi musicali. E quali erano i generi musicali che ascoltavate? Bravo. Quello vabbè, che si apre l'orizzonte. Si apre l'orizzonte. Vabbè, si apre l'enciclopedia. Ovviamente io, avendo scritto un pezzo in italiano e così, che l'avevo registrato con una mia amica che suonava il basso al tempo, si chiamava Sandra Lusito, gli ho fatto sentire questo pezzo, abbiamo iniziato a parlare di After Hours, sì, però avete... Paolo Benvenu, Cristina Donà, sì, insomma, ma... questo cantautorato italiano che adoriamo. Io e Enzo sappiamo una cosa, però avete cominciato a fare delle cover di PJ Harvey, che non è mica una cosa semplice. Cosa dici, Enzo? Fate cover PJ Harvey? Esatto, cioè, si contano sulle dita di una mano, chiaro. Come mai PJ Harvey? Tu sei una ragazza, chiaramente, forse ti sei ispirata a PJ Harvey. L'energia. Ecco, l'energia. Difatti tu sei energica musicalmente parlando. Sì. Decisamente. Beh, sì, come no. E Enzo, confermi. Confermo, anche sì. Anche Gil conferma, sicuramente. Certamente che sì. Si sa che se uno vuole imparare a fare una cosa, la deve passare attraverso l'imitazione. No? Sì. Nell'arte, ma quando uno imita o tenta di imitare PJ Harvey, imita bene, secondo me. Cosa se dice? Ci riesce, sì. Se ci riesce. Cioè, non imita Vasco Rossi, per carità, no, certo. Niente. Ma è PJ Harvey. È un bel imitare, diciamo. È un po' diverso, secondo sì, me. Esatto. Ma sì. Forse è anche una facilità che ho, perché penso che il tipo di tonalità e di voce che ho mi ha facilitato avvicinarmi a lei, insomma, quindi tutto sommato mi venivano facili. E poi è un rock che adoro, perché è essenziale, molto essenziale, molto energico, molto energico e comunque complesso pur nella sua semplicità. Sì. E insomma, live in certe occasioni rendeva proprio questa energia e mi permetteva di esprimere la mia. Anche ecco. Se era nell'imitazione di lei. Enzo vi ha visti e mi ha subito detto: questi hanno una grossa energia. Quando abbiamo parlato per cercare con Alberto, che è il nostro direttore artistico, che salutiamo, che è stato lui che vi ha voluto qua stasera. discorso dell'energia, del modo di proporsi musicalmente, perché voi siete una band da praticamente dal vivo, assolutamente vi piace suonare dal vivo, come tutte le band dovrebbero essere, sì, così, è l'essenziale, no, delle cose. Sì, ovviamente questo il primo, diciamo, il primo progetto che è stato sviluppato appunto erano le cover di PJ, perché consentivano appunto di proporsi come duo, quindi chitarra e voce, che è una formazione che a me piace molto, quindi il duo è sempre stata una cosa un po' particolare. Una chitarra abbastanza schematica. Una chitarra, cosa sì, dice Alessandro? La chitarra di PJ è sicuramente molto, molto schematica, molto ritmata. Senza tanti effetti. Scarna, essenziale. Cosa dici, Enzo? Ma io sono d'accordo sempre con te, Maurizio, quindi su questo non ci piove. Invece volevo chiedere ai nostri ospiti come, da dove deriva il nome Ella Noir. Questa è una gran bella domanda. Mi sono preparato, Maurizio. Ho visto. Gil, ci sei? Sì, sempre. Sì, io sono tra due fuochi questa sera, okay, ragazzi. Io vi lascio massima libertà. Sta monitorando Facebook. Io mi fido di voi. Non c'è mai stata in realtà una vera decisione sul nome. In qualche modo è come se il nome ci fosse già stato e quindi lo abbiamo un po'... Dopodiché, ragionandoci, comunque Ella Noir è un diciamo che ispira la femminilità, perché ricorda un po' Eleonora, ma in realtà, come abbiamo scritto anche nel profilo, qui non c'è nessuna Eleonora che canta in francese. Anzi, anche se ci piacerebbe, canta, si canta ci potrebbe essere. Potrebbe essere un discorso interessante questo. E quindi è la noir, un po' la femminilità, c'è cioè questo termine noir che ricorda un po' diciamo da le atmosfere, da dove, sì, anche le nostre un po' da dove vengo io, insomma, un po' dal dark, e quindi... Ma non sei decadente però? No, decadente no. Assolutamente, no, però decadente il dark si può anche sposare col decadentismo, secondo me. Sì, sì, sì, sì. Decisamente. Però diciamo che c'è più la femminilità, insomma, non per niente, insomma, la voce femminile, certo. La mia voce dà una leggera mano ogni tanto, ma insomma. Maurizio, io vi darei i tempi e direi che magari possiamo fare ascoltare anche il primo brano del gruppo. Della scaletta. Una domanda veloce, perché a me piace anche un attimo e presumo anche, cioè ci mettiamo anche da parte di chi ascolta. Due parole veloci in generale, prima di introdurre il primo brano, di cosa a grandi linee parlano i vostri testi e poi magari due parole in particolare sul primo brano che andiamo a ascoltare. D'accordo, allora, di cosa parlano i nostri testi? Di una tematica che tutti devono percorrere, perché è quella che fa parte della nostra vita, che è l'amore. Molti sono ispirati a questo, a storie che ho sentito, a vicende che ho rosicchiato di qua e di là, e quindi che sono poi state messe insieme, no? Ma sono anche ambienti urbani, sono immagini fondamentalmente, che poi si mettono insieme a dei pensieri, ma non hanno... proprio l'abbiamo detto anche nell'introduzione, lo scopo di rivelare nulla, ma più che altro di evocare, di lasciare quindi lo spazio a ciascuno di sentirsi dentro queste canzoni, ma già nell'idea di come nascono, nascono come immagini soprattutto, come sensazioni. Poi insomma, dare messaggi è molto difficile, certo. È molto difficile. È il pubblico però, che un percorso forse... Bravissimo Maurizio. Che viene col tempo, ma l'importante è appunto, perché per me è fondamentale, appunto, discorso sì musicale, ma tutto anche nel contesto, ha una sua importanza anche il testo, e che uno lo spieghi perché scrive così. In particolare Maglietta Blu? Sì, allora Maglietta Blu sono due, è come un film diviso in due scene in cui viene proiettata la vicenda di due persone che contemporaneamente stanno facendo due cose. Ce n'è uno che è ancora lì, che si occupa del giardino, si occupa delle cose in cui hanno creduto insieme queste due persone, che non necessariamente sono due amanti, potrebbero essere anche due amici, potrebbero essere anche due persone, cioè, che non si sono due persone si che sono non si sopportano più, esatto. che sì, che non si sopportano più, soprattutto perché non sentono più le emozioni nello stesso modo e non sono più in contatto, ecco, questo succede. E quindi uno fa una cosa e uno ne fa un'altra, uno si occupa del giardino, delle cose naif, delle cose sognanti e ci crede ancora, e quell'altro dice io devo recuperare il mio posto al centro del mondo, quindi devo smettere di calpestare le linee di mezzo e devo entrare in qualcosa che mi faccia sentire parte di questo universo. Magari lo era già, perché solo che non se n'era reso conto, e quindi dice a un certo punto uno dice è ora di comprare una maglietta blu, come se questo blu di una maglietta potesse risolvere questa situazione. L'altro invece dice sa che troverà il giardino distrutto, perché è come il rapporto fra due persone che si distrugge lentamente, è come abbandonare un giardino, abbandonare le rose, non seguirle più, lentamente si fa arido, no? Però bene, Marta, questo. Io direi che prima di anche mandare in onda il brano, diciamo che è una cosa particolare. Il gruppo ha deciso di fare sentire anche l'intro di questa canzone, e quindi noi partiremo con l'intro, sentirete qualche secondo di vuoto, non è un vuoto tecnico, ma è proprio voluto dalla band di inserire anche l'intro di questa canzone. Living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Everything else is secondary. Final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Stare a linee di mezzo e mettere i piedi al centro del mondo. tutta blu. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora Alessandro, due chiavi di lettura. La prima chiave, questo intro molto lungo, un intro per modo di dire, poteva essere un altro pezzo, molto lungo, molto psichedelico, volutamente psichedelico. Perché Alessandro? È volutamente psichedelico. Allora, questo pezzo parte dalla, diciamo così, dalla potenza delle parole, indipendentemente da chi le dice. Non è importante che sia Steve Jobs o un altro. Il messaggio di quel discorso, secondo me, è universale ed è un qualcosa che mi piace molto. Cioè, bisogna seguire i propri sogni, le proprie ambizioni, le proprie ispirazioni. Indipendentemente da tutto. E perché, insomma, l'hai confezionato? Cioè, questo, l'hai confezionato così? È entrato in questo giro della chitarra che diciamo caratterizza fortemente Maglietta Blu. È stato dilatato, quindi per tenere appunto aperta l'impianto sonoro, e con questa voce che dice, ricorda tutti i giorni, dovremmo ricordarcelo tutti i giorni, di non fermarci mai, di andare sempre avanti a seguire i nostri sogni. È leggermente, cosa dici Enzo? È qualcosa che fa sognare, che fa sognare. È leggermente floydiano, secondo me, almeno nella cadenza, floydiano, non ultimo Floyd, ma i primi Floyd, i barrettiani. Beh, si vede che c'è l'enciclopedia vivente, insomma, perché diciamo che quella è la mia prima ispirazione. Quindi io sono cresciuto a Pink Floyd, però i Pink Floyd, quando c'era il The Pink Floyd avanti, quindi soprattutto i primi dischi, o comunque quando dopo il De non c'era più. Però comunque, ma non riusciva più a stare in piedi il De, hai capito? No. Per un primo disco, poi già il secondo era difficile stare in piedi, il motivo è una questione anche fisica. Cosa dici Enzo? È un pezzo molto, molto bello, anche il testo, prima anche Marta ce l'ha spiegato, secondo me è un bel messaggio. E poi abbiamo sentito che Marta entra nella seconda parte, ma entra in maniera molto energica, proprio alla PJ Harvey, possiamo dirlo. Qualcuno ha parlato di Siouxsie, Po Dusty, ma soprattutto PJ Harvey, durissimo, ma durissimo nel senso positivo, e tanta energia. Cosa dici? Grande energia, sì, bel pezzo rock. Li hai visti dal vivo, chiaramente. Io ho ascoltato anche i loro pezzi, anche quelli che hanno pubblicato in internet, e devo dire che sono belli brani rock, come piacciono a me. Esattamente. Esatto. Bene, una cosa positiva, Marta, cosa dici? Sì, è nata anche in modo strano, perché è stata prima creata la musica e poi il testo e poi quel testo parlato, sì. Che e poi viene il fatto tuo intervento, voglio dire, in un terzo momento, una sera che era parecchio tardi, cioè una notte praticamente, mi è venuta questa ispirazione, per cui l'ho cantata piano, perché sennò i condomini mi ammazzano. E ho cantato L'amore non muore, si trasforma, che tra l'altro è una frase che ha detto lui in una di quelle notti quando si torna dalle prove, che è tardi, no? Che si discute un po' di tutto. È venuta fuori questa frase, io me la sono ricordata, l'ho ripescata fuori. Perché sì, è molto bella, insomma, l'amore non muore, si trasforma. E così ho cantato anche questa terza parte, gliel'ho mandata, lui ha collegato le cose. Ha collegato le cose bene, perché è bravo a fare questo, lo sa fare bene, e è venuto fuori un pezzo simpatico. Hai detto una cosa giusta, forse hai detto anche Enzo è d'accordo. Quelle notti in cui si discuteva di musica, una volta si faceva così, si discuteva di musica una volta, cosa dici Enzo? Adesso un po' meno. Beh, noi continuiamo a farlo. Noi sì. È un discorso lungo questo, Maurizio. Ma è interessante, visto che il gruppo esatto. È giovane, sì. Rispetto a noi, che a te, a me, soprattutto, che ho una certa età, anche te, Gino, una io ho una vita. Sofferenza, Maurizio, se non ti vedo soffro. Levo via il pacchetto, esatto. Adesso mi vedi. Adesso è tutto... No, dimmi. No, penso che sì, c'è comunque ancora, forse non siamo tantissimi, però insomma penso che giovani che ascoltano musica, che fanno musica, e ce ne sono assolutamente, anche chi comprano i dischi, forse siamo rimasti in pochi, ma io dei miei gruppi preferiti vado sempre a prendere il CD, non vedo l'ora che arrivi, quindi insomma. Posso dirti una cosa, tu che ami particolarmente Manuel Agnelli, c'è qualcosa nel finale che può ricordare certe atmosfere? Secondo di me sì. Ma è un po'... Secondo tirate, me sì. Cosa dici? Alessandro, parlo con te, poi parliamo anche con Simone, che è fondamentale su questo pezzo. Ma finta di te. Niente, Simone. Dimmi, Alessandro. Nel testo? No, anche musica? Il modo, il finale ricorda molto l'estremismo degli After Hours in alcuni momenti. Sì, beh, sicuramente c'è molto After Hours in questa. Ma non in senso negativo, canzone. Sì, ma. Assolutamente. In questa canzone si potrebbe anche riconoscere anche. Di massimo volume, quindi anche quello un po' parlata più che cantata. Sì. Sì, è un insieme di tante sensazioni diverse, e quindi anche dal punto di vista musicale, anche dal punto di vista del testo, ed è un po' un agrodolce. In questo sì, è molto simile a Manuel Agnelli, con appunto questi testi suoi un po'. A volte molto spigolosi, a volte incomprensibili. tu che sei il biografo degli After Hours, esatto, cosa dici di questa affermazione di Alessandro? Esatto. Beh, possono essere condivisibili, sì, dai, diciamo di sì. No, nel senso che sì, insomma, i testi a volte sono piuttosto particolari, ma forse anche questa è la bellezza degli After Hours, ecco, diciamo certo. Di sì. L'importanza di Simone, un pezzo come questo è fondamentale dal vivo. Non so se tu l'hai già fatto questo pezzo dal vivo. Con loro. Non ancora, però l'idea secondo me è stata anche questa di allargare il discorso con Simone al basso. Sì, infatti io farei magari una brevissima presentazione. Ovviamente questo disco è nato un po' in studio, poi abbiamo iniziato a portarlo fuori. Però in realtà, appunto, ascoltandolo, qui ci siamo allontanati da quello che poteva essere la chitarra e voce di PJ. E quindi adesso abbiamo iniziato ad allargare, come ho scritto tempo fa sul profilo, la noir muta, evolve, si trasforma, restando però la noir. E quindi adesso abbiamo appunto con noi Simone al basso, e poi ci stiamo ancora allargando anche. Sì, con... abbiamo un altro ragazzo che ci darà una mano, che è Maurizio Isoli alla batteria. E quindi a questo punto questi pezzi del disco, che sono appunto stati prodotti in qualche modo nello studiolo casalingo, a questo punto possono veramente prendere il volo. Diventa una band a tutti gli effetti. Diventa una band a tutti gli effetti e possono prendere il volo. Cosa dici, Simone? Dico che è un progetto decisamente interessante. Sono parecchie cose da valutare e ci sarà un sacco di impegno da mettere. Ah, ok, perfetto. Sicuramente. Maurizio, allora, direi di possiamo passare al sono primo pronti? Brano live. Certamente. Siete pronti? Sì. Allora, ragazzi, io vi mando un jingle per darvi il tempo di prepararvi, ok? Thank you. barracuda dove sei, non lo sai che ovunque andrai avrai sempre addosso gli occhi di chi è stanco come noi di vedere solo eroi e di muoversi in direzioni instabili. E se ancora non ti accorgi che son qui è perché non guardi verso me. Affonda pure nelle carni i tuoi denti scintillanti, decidi un po' per me, decidi un po' per me. In una posa immobile la tua preda io sarò, rinuncerò alle stelle, imbiancherò la pelle e se mi accontenterai io non sarò emozione, diventerò la tua ossessione, diventerò. E se ancora non ti accorgi che son qui è perché non guardi verso me. Affonda pure nelle carni i tuoi denti scintillanti, decidi un po' per me, decidi un po' per me. Io resterò qui sul fondo del mare a farmi drenare, sul fondo del mare a farmi curare, sul fondo del mare a farmi drenare, sul fondo del mare a farmi curare, sul fondo del mare a farmi drenare, sul fondo del mare a farmi curare. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Da oltre 30 minuti in compagnia di questo gruppo, gli Lenoir, con Marta Savoldo alla voce, Simone Toniolo al basso, Alessandro Crivellaro alla chitarra. Con noi questa sera, oltre Maurizio Calzavara e Gilles Facchinelli, alla regia c'è anche un gradito ospite, Enzo Mosca. A voi la parola, ragazzi. Questo è un brano da molti chiaroscuri, noi l'abbiamo scelto perché a me ad Alberto piaceva particolarmente. Mi pare, non so se sbaglio, che c'è un riferimento a Dino Buzzati in questo pezzo. Sì. Lontanamente. È un esorcizzare la paura. Certo, è così? Sì, in realtà quando l'ho scritto è venuto fuori di getto, come succede a volte. Poi, siccome io sono un'ammiratrice di questo scrittore da sempre, l'ho percorso in lungo e in largo. Quindi l'hai sempre letto, lo sento nelle, sì, me lo sento nelle dentro, corde, per come anche percepisce la realtà e la fantasia e come gioca in questi due ambiti, insomma. E mi sono accorta poi che era il Colombre Buzzattiano, che è questo mostro marino, sì, che in realtà insegue il suo, diciamo, il suo predestinato, pensando di portargli la fortuna, solo che il predestinato lo percepisce per una sorta di tradizione popolare come un mostro che porta sciagura. E quindi il Barracuda per me è la stessa cosa. In realtà li avevo anche visti, insomma, nel corso di un'immersione, mi era piaciuta la loro linearità di come si muovono, per cui sembrano molto impassibili nel loro movimento, che è così lineare. Ho immaginato che fosse appunto questo colombre, che certo, poi alla fine non è lì e rappresenta appunto una sorta di tutte le, sì, può essere il corrispettivo della paura, delle paure che ci accompagnano sempre e che non risolviamo, però sono anche quelle che mettono in moto energia. Ecco, mettono in moto energia. Caro Enzo, Alessandro ha una Fender Stratocaster, che bella, qui davanti, ma in questo pezzo secondo me è dato significativo il basso di Simone, che ha dato uno sviluppo notevole al chiaro oscuro, questo chiaro e oscuro del pezzo. Simone, cosa ne pensi? Io è la prima volta che ti vedo che suoni il pezzo, lo hai suonato dal vivo in questo momento, sì. E il basso secondo me ha dato una chiave di volta non da poco. Non so, Alessandro, tu che l'hai composto musicalmente. Sì, sì, ma sicuramente la versione, quella che si può ascoltare nel disco, ovviamente è diversa, sì. È stata questa prodotta, quindi sono linee di basso messe giù. Questo è basso effettivo. Qui invece stiamo parlando di un bassista vero. Esatto. Quindi anche nelle canzoni che sentiremo dopo c'è moltissimo questa costruzione della... non solo della ritmica, ma anche costruisce molto di più, entra anche a volte nella melodia, quindi il basso, diciamo il nuovo basso di Elanoir, porterà veramente delle cose molto interessanti sia a livello ritmico che a livello armonico e anche melodico. Certo, cosa dici dell'interpretazione di Marta stasera? Proprio un pezzo difficile. Molto difficile. Sempre con i chiaro oscuri, quello è fondamentale. Barracuda. Difficile. Già era difficile nell'album. E qui chiaramente ha dato una versione acustica. Molto bella. Io così prima, così parlando delle influenze che può avere il gruppo, e Marta citava Cristina Donà. Certo, è vero, quindi, che bello. Esatto, e in questo pezzo sì. Poteva avvicinarsi, sì, quindi è stato molto bello, sì. Anche Cristiano usa spesso e volentieri i chiaroscuri. Qui era molto schematica stasera, in questo momento l'hai fatto molto schematico, però giustamente, sì, come diceva Enzo, Cristina Dovà è sicuramente forse la più brava interprete italiana dell'indie, così possiamo dire, cosa dite? Sì, guarda, io l'anno scorso l'ho vista dal vivo in un festival che hanno organizzato qui a Padova, molto bello. E quindi sia è una grossa capacità è una grossa capacità dal vivo, molto bello, sì. Questa sera con l'interpretazione di Marta, insomma, sì, è stato molto bello. No, beh, grazie, sì. Decisamente, bisogna dire queste robe. Grazie, grazie. A esatto. Proposito di dire, volevo chiedervi una cosa importante. Un bellissimo paragone. Il vostro CD, che si chiama come voi, Elanoir, si può scaricare gratuitamente ancora dal... Sì, si può scaricare. Diciamolo, perché sicuramente se magari qualcuno che all'ascolto sarà interessato a avere questa possibilità. Sì, l'EP è stato pubblicato in forma digitale su Bandcamp, quindi si può trovare all'indirizzo elanoir.bandcamp.com. E la formula utilizzata è il name your price, quindi può essere scaricato gratuitamente, ecco, oppure se qualcuno vuole supportare il progetto può scegliere il proprio prezzo, quindi può decidere quanto può valere per lui supportare questo progetto. Come mai questo discorso si sta ampliando secondo te, anche Enzo? Beh, qualche mese fa, due mesi fa, sono venuti a suonare qua i Sicky Tikis. Esattamente. E ci dicevano che ad oggi conviene pubblicarli anche gratuitamente in rete, tanto vero che loro sembra l'abbiano pubblicato sul sito di Rock It. Conviene proprio pubblicarlo gratuitamente piuttosto che. Sì. E quindi loro hanno utilizzato questo. Forse perché, sì, purtroppo in questo periodo i CD se ne vendono un po' meno, anche se... No, decisamente. Decisamente meno. Però anche se si vendono i concerti, esatto. Quello sì. Ai concerti sì, infatti. Concerti sì. Secondo me questa è una buona soluzione, insomma, anche perché poi magari ascoltandolo gratuitamente si può anche invogliare poi ad acquistarlo, quindi sì. perché non c'è la capa dell'etichetta che pesa. Anche se ci sono etichette indipendenti, d'accordo, però è sempre un'etichetta. Cosa dici? Questo è un lavoro assolutamente, squisitamente autoprodotto. Sì, d'accordo, d'accordo. Però l'idea si può ampliare. L'idea è sicuramente interessante. Secondo me, prima abbiamo citato gli After Hours, per esempio, con l'iniziativa di I'm with the Band, quindi anche loro hanno deciso hanno deciso appunto di rendersi veramente indipendenti, e a quel punto sono i fan che supportano il progetto, certo. E quindi lasciano l'apertura, insomma la libertà di esprimere dopo. È ovvio che avere la mano di qualche produttore sicuramente aiuta, insomma, però l'autoproduzione è una cosa veramente molto, molto divertente ed è una cosa assolutamente piacevole. Ed è soprattutto libera. Libera, sì, sì. Libera da qualsiasi impedimento, da qualsiasi pressione. È importante anche questo. Qualcuno dice, ma però non ho quel veicolo là. Siamo d'accordo, però sei libero di fare, di sviluppare, di andarti a te a cercare gli sviluppi. Quello che c'è dentro esce. Quello che esatto. Ognuno di noi ha dentro, in questo modo sei sicuro che non ha filtri. Questo ovviamente può avere aspetti positivi e aspetti negativi, dipende dai punti di vista. Io lo considero un aspetto positivo. Tu cosa dici, Enzo? Ah, molto positivo, anche perché proprio parlavamo con alcuni gruppi che sono venuti qualche tempo fa, questi nuovi programmi, chiamiamoli così, che sfornano ogni 6 mesi un nuovo pseudo cantante, poi però questi ragazzi devono seguire una loro linea. Sì, possiamo anche dire. Possiamo citarli, sì. Possiamo citarli. Possiamo citarli, sì. Devono seguire una loro linea. Dalla A alla Z. Dalla A alla Z, sì. Poi dopo 6 mesi spariscono. Forse è meglio essere liberi totalmente. Assolutamente liberi totalmente. Sì, abbiamo parlato di certi spettacoli televisivi. Ecco, la televisione ha distrutto. La televisione è stata una causa della crisi della musica, secondo me. Televisione ha distrutto certe cose. Tanti locali chiudono anche per quello. E la gente non trova da suonare, non è così? Assolutamente. Sì, torniamo al discorso delle frasi pescate di notte a parlare anche quello, di assurdità, ma. Però era positivo. Fa comunità, cioè certo. Ci si scambiano opinioni, ci si scambiano anche follie. Perché poi quando si raggiunge una certa ora non si sa più quel che si dice, però però comunque è una sì, è una bella dimensione. È uno spirito diverso. E effettivamente la gente si muove poco. Certo. Non so se è la televisione. Non apriamo neanche la parentesi televisione, perché oltre ad aver distrutto la musica ha distrutto il cervello di molti di noi, me inclusa, che me ne sono liberata un anno fa e sono contenta di averlo fatto. Perché sì, un po' rinasci, però sì, questo aspetto c'è la mancanza delle persone che si muovono e che condividono e che hanno voglia di ascoltare qualcosa. L'ascolto è una dimensione che si sta perdendo, che si è persa. Io credo molto nelle nuove generazioni, comunque, sempre come li vedo sempre come delle energie nuove che possono comprendere tutto quello che noi pensiamo di aver compreso. Non c'è nessuna presunzione, bisogna capire che sono esattamente come noi e non hanno, forse con delle problematiche in più, però io ci credo, perché vedo ragazzi giovani che ascoltano moltissima musica e che si impegnano per creare festival, per fare musica originale. Assolutamente originale, parliamo di musica assolutamente originale. E a proposito di musica, io direi a questo punto, a proposito di ascolto, di fare ascoltare la prossima canzone dal vostro EP, che si chiama Amore e Psiche. Tra poco giungerà la trappola degli dèi. A astuto e perverso, i miei sensi sinceri contro il cieco desiderio. Sono qui sulle gote della notte, la mia vista ti nega, la mia presenza. Fidati del tuo Dio, fidati del tuo Dio, fidati del tuo Dio, fidati del tuo Dio. D'olio bollente, perdonami, volto splendido, se ho rotto questo magico incantesimo, ero felice e non lo sapevo. Senza curiosità, la soddisfazione non mi sazia. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Caro Enzo, stavamo parlando con Alessandro, con Simone e con Marta. Questa scatola magica che da cui viene fuori una fase rumorista, Alessandro, come mai una scatola magica che viene fuori una fase rumorista almeno alla fine del pezzo? Beh, sì, lì c'è una chitarra che sta facendo del casino. Sì, sì. Diciamo così, è un insomma, il testo parla del, vabbè, magari dopo Marta è più brava di me nel spiegare i testi, quindi è un amore distrutto, esattamente, quindi, e alla fine la canzone proprio esplode, diventa, la chitarra diventa cattivissima, diventa rumorosa, perché appunto diventa distruttiva, amore psiche. Diventa distruttiva, quindi in effetti alla fine c'è un po' di rumore, c'è un po' di, di, di noise, diciamo. Di noise, cosa dici, Enzo? Sì, dal punto di vista musicale è molto, molto interessante il brano. Poi, insomma, sono interessato anche. Potrebbe distorgere bene dal vivo, quando sul palco potresti giocare su sta roba. Sì, sì, ovviamente questa canzone c'è anche una. C'è una discreta componente elettronica, perché appunto ci sono dei sintetizzatori. Però appunto è proprio divisa in due parti. La prima parte dove appunto le cose non vanno bene, diciamo così, e la seconda parte dove invece c'è la distruzione. Tra l'altro ricordiamo che Alessandro viene proprio dalla musica elettronica, la tua formazione. Sì, sì, diciamo io sì, prima di appunto di questo progetto producevo della musica elettronica. Diciamo vicina al suono di Bristol, ecco, per capirci, quindi Massive Attack, ma non c'è poco Massive Attack, c'è molto poco. Sì, sì. Su queste canzoni che abbiamo sentito fino adesso assolutamente quasi nulla, c'è poco, perché alla fine il rock sempre prevale, si è allontanato. Attack non sono rock, sono rock lo stesso. Diciamo che sì, loro hanno un rock un po' particolare. Hanno costruito un loro tipo di suono, un genere, insomma, un genere nuovo, difficilmente catalogabile. Ovviamente gli hanno dato il catalogo. Sì, anche i soldi poi, con i dischi che hanno venduto per quello. Sì. Però hanno... È un bel suono quello di Massive Attack. Sì, sì, sì. Anche se poi chiaramente qualcuno potrebbe dire ci sono tanti riferimenti, tante sequenze, eccetera. Però è un gioco anche quello, un gioco musicale interessante, estremamente interessante. Tutto, cosa dici, Enzo? La nostra amica Marta ci potrebbe spiegare un po' il testo della canzone? Certo, sì. Assolutamente sì. Beh, Amore Psiche, sì, la cosa che mi viene in mente subito è questo incontro amoroso che avviene sempre nell'oscurità. E anche qui c'è di mezzo la fiducia in ciò che non possiamo vedere, che è quindi alla fine anche l'anima delle persone che ci stanno vicino, che sì, nel caso di una relazione amorosa che convivono con noi, che condividono le nostre emozioni, i nostri sentimenti, quindi... Sì, io quando immagino Amore Psiche immagino immediatamente la goccia d'olio che cade e fa rivelare la presenza di questo amante che non si dovrebbe vedere, perché sì, appunto c'è un divieto che viene dalla divinità, insomma, nel fare questo. E questa è l'immagine più forte che mi ha fatto pensare di scrivere questa piccola, che poi è solo un frammento della storia, però si prestava. Quando tu hai scritto il pezzo, poi Alessandro ti ha proposto la colorazione sonora. Cosa ti sei sentita? Cosa hai pensato con questa colorazione sonora? Hai detto sì, ok, facciamo così. No, c'è stata una discussione, c'è stata una democratica, assolutamente democratica, perché bisogna discutere democraticamente per fare un pezzo. Bisogna, come c'è Blood, Sweat and Tears, sangue, sudore e lacrime, c'è poco da fare. Per un pezzo bisogna fare sangue, sudore e lacrime, sempre dal punto di vista musicale. Sì, più che altro il problema è che quando inizio io a scrivere cose un po' cupe e malinconiche, poi lui ci aggiunge la sua cupezza, il suo essere un po' dark anche nella sonorità, e quindi a volte bisogna... Poi magari io ci aggiungo pure la voce che è un po'... che viene un po' da questo sottosuolo e sarebbe meglio di no, insomma, ecco, sarebbe meglio che una parte di questi una piccola lucetta dove venire fuori. Sì, ecco. E ci stiamo lavorando, ecco. Ma è molto dura, perché è una cosa che si implica la leggerezza, e sappiamo bene che la leggerezza è una componente che si acquisisce con molta fatica in qualsiasi forma d'arte. Certo. Però è quella che alla fine premia, perché attraverso la leggerezza forse si arriva meglio all'animo delle persone che ti ascoltano, che ti vedono, che ti leggono, nel caso di un'opera d'arte pittorica o di scrittura, insomma. Cari ascoltatori, non è dark questo, assolutamente, assolutamente. L'oscurità non è dark, e la Noir non fanno Dark. Dark non è mica morto, è sepolto, assolutamente, viene sempre fuori, però non è Dark. Cosa dici? Assolutamente. Oh, no. Se mi dite così. Eh no, per noi no. Mi rassicuro, almeno. È rassicuro. Ha dei giri, ecco, che potrebbe ricordare lontanamente, potrebbe ricordare. Ma non c'è niente di male, assolutamente. No, no, assolutamente. Probabilmente proprio l'identità è le Noir. Esattamente, quella là. E adesso col discorso della band, dei quattro componenti presunti, tre più il quattro, il quarto che verrà, bene o male. Maurizio. Ecco, Maurizio. Isoli. Si sviluppa il discorso, si allarga, e allora l'idea di Alessandro, l'idea di Marta, e poi con l'aggiunto di Simone, è questo Maurizio, che praticamente il batterista, dice. Certo, il batterista. E la batteria è fondamentale. Cosa dici? È chiaro. È chiaro, dà proprio l'impulso. Rompe quella cortina di Dark, se così, così creato, per sviluppare quel filone che si allontana leggermente per dare più propulsione. Perché l'idea di Alessandro, che ho capito io, è di accelerare, di dare fuoco alle polveri, come si dice, cosa pensi, Enzo? Confermo. Dal vivo è così. Dal vivo rende. Dobbiamo poi sviluppare la forza di Marta. Ricorderemo anche concerti, magari. Certamente, esatto. Certamente, ma è fondamentale. La forza di Marta deve avere un supporto di una band vera e propria, in quattro, cioè tastiera e batteria e basso, è una band assolutamente. Poi le tastiere le può giocare Alessandro con tutti i suoi giochi con la chitarra, chiaramente. Maurizio, dimmi. Un altro live. Ma certamente, siamo pronti, assolutamente. Stiamo già fremendo, esatto. Vogliamo presentarlo? Cosa facciamo ascoltare, ragazzi? Sì, una passeggiata notturna. Mi sento un po' dovresti parlare con l'altro microfono. Sì, Cenere è una canzone che fa riferimento a una passeggiata notturna in cui una persona semplicemente riflette, ma in un ambiente poco piacevole, quello degli snodi urbani, del traffico, e sollevando lo sguardo proprio per cercare magari qualche risposta, questa persona trova a sua volta un cielo che non dà risposte, perché è come un lenzuolo che non si svolge, che non si apre, e quindi niente, rimane una sorta di riflessione incastrata, bloccata lì. Bene. È una sensazione, ecco, che ho voluto trasformare. Allora ascoltiamoci dal vivo gli Les Noir. Bruciano i pochi resti di voi, e ce ne ti rinfresca ancora, cenere che ti ristora, cenere che ti rinfresca ancora. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:02 minuti primi a Blu Radio Veneto, Gilles Facchinelli, Maurizio Calzavara e Enzo Mosca con voi per presentare questo EP delle Eleanor. Marta, come andiamo? Un po' accaldata, eh? Un po'... Tutto. Maurizio, non è gra- sì, vai Enzo, tanto cerchiamo di sistemare. No, Maurizio, molto bella questa interpretazione, sì, del brano. Sì, io ho notato una cosa, caro Alessandro. Le note che facevi con la Fender sembravano note da percussive, come avessi una batteria, ed entravano dentro lo stomaco. Assolutamente entravano dentro lo stomaco. Poi l'interpretazione proprio sofferta, proprio teatrale quasi possiamo dire, di Marta. Cosa dici, Enzo? Ah, beh, veramente un pezzo di grande energia, nonostante chitarra, basso e voce basta. Ci siamo emozionati, sì, in questa interpretazione. Di grande, vero? Energia, sì. di grande pathos, cara Marta, secondo me. Diciamo, questa canzone è quella che ricorda di più PJ. Sì, vogliamo. Assolutamente sì. È nata così, è nata proprio chitarra e voce. In effetti, sì, nel frattempo... Adesso proviamo, sai cosa facciamo? La leviamo via e dopo lo sistemiamo. E sì, effettivamente ricorda molto PJ, assolutamente. Però l'interpretazione che ha data Marta, il discorso di PJ è molto interessante, importante. Voi avete cominciato facendo le cover di PJ, però stasera veramente ha sviluppato una, in questi minuti, dalle 23 alle 23:03, questi ultimi minuti finali del pezzo, hai dato un'energia notevolissima. E lui ti caricava col giro che faceva lui con la chitarra, ti caricava in modo incredibile, impressionante nel senso positivo del termine, musicalmente parlando. Sì, è una canzone anche un po' difficile a livello ritmico, sì, che ci sì. ha dato parecchie, parecchie rogne. Tanti stop and go, cioè sì. rincorse, fermate, rincorse. Sì, forse è questa la bellezza, insomma. Qui ci vuole un batterista secco per fare una cosa simile. Proprio secco. Secco nel senso. Secchissimo. Cosa dici? Esatto, quello che ha Giorgio Canali. Ecco, potrebbe essere un altro punto di riferimento, nel senso, sempre nel senso ampio del termine. Quanto costa? Giorgio Canali è moltissimo. No, il batterista. Ah, il batterista. Alla tempesta glielo chiediamo. Alla notte della tempesta glielo chiediamo. Sì. No, dai. No, adesso stiamo scherzando, però musicalmente. Però è un ottimo consiglio questo. Un buon riferimento. A proposito di riferimenti, cosa dici di il suono 23:04? Adesso facciamo il giochetto, Esatto, la domanda clou. La domanda clou, dai. No, non iniziate da me. Non iniziamo con da le te. Le domande clou, no, per favore. Allora, benissimo. Iniziamo da Alessandro. Facciamo una prima domanda però, Maurizio. Ah, dobbiamo fare la domanda. Dobbiamo fare la domanda. Allora, sì. I famosi dischi da portare su un'isola deserta, caro Alessandro. Cinque dischi. Facciamo cinque, sì, visto che abbiamo tempo stasera. Questa è una gran domandona questa qui. Allora, diciamo così, i primi due sono facilissimi per quanto mi riguarda. Uno sicuramente un disco dei Pink Floyd che abbiamo citato prima, quindi è un disco... Il primo? Uno dei primi, magari non proprio il primo, potrebbe essere Nice, Successful Secret. Potrebbe essere, esatto, Soul of Secret, o anche More, insomma, il soundtrack del Non c'era già più Syd Barrett. No, Syd Barrett ha fatto solo il primo disco, insomma. Esatto, praticamente sì, solo quello. E poi come secondo? Come secondo, anche qui è abbastanza facile, sicuramente un disco dei Cure. Perché, cosa insomma, dici Enzo? A me piacciono molto i Cure, per cui sfondano una porta aperta. Sì, quello è un mio riferimento, insomma, i due miei riferimenti. Eccolo. Quindi sì, ecco, io magari avevo in testa anche, non so, tipo pornografi. Sì. Questa è la fase più, semplice, più facile. Sì, sì, più semplice, però comunque anche molto qui... Molto accattivante, ma molto intelligente. Io, insomma, ho tenuto quando ero adolescente, insomma, avevo la fotografia di Robert Smith in camera. Insomma. Quante volte l'hai visto dal vivo? L'hai visto? No, non l'hai mai visto. Purtroppo no. Sono venuto a Milano l'anno scorso. L'hai visto da te? Purtroppo non sono andato. È andato mio amico Enrico Molteni dei 3D Ragazzi Morti. Mi ha detto che è stato uno spettacolo. Lui è uno spettacolo in ogni caso. Nel bene e nel male, assolutamente. Sì, sì, sì. Numero 3? Poi, numero 3 qua è già un po' più difficile. Allora... Potrebbe essere un Gil disco... sta giocando intanto, sentite nel sottofondo, Gil sta giocando. Sì. Ci segue la grande. Esattamente. Qualcosa che per me è un disco, insomma, una pietra miliare del rock italiano, che potrebbe essere CCCP, Socialismo e Barbarie, per esempio. E adesso la cosa si fa un po' più difficile... Perché dopo penso anche ai dischi che mi hanno accompagnato, no, negli anni. E quindi a un certo punto, appunto, c'è stata l'illuminazione sulla via di Bristol, quindi sicuramente un disco dei Portishead potrebbe essere Dammi, bellissimo. Infatti anche, sì, facciamo anche Rhodes dal vivo. Dammi, un disco meraviglioso, ha fatto storia, ha fatto epoca. È ovvio che dopo ci sarebbero degli scatoloni di dischi da portare, però diciamo potrebbe essere un disco degli After Hours. Quindi fai piacere a Enzo. Esatto, quindi. Grazie. Sì, cioè, il rock italiano anni 90 potrebbe anche essere un disco, per esempio il Rosemary Plexiglas degli Scisma, che è stato un gioiellino... Nel panorama. Sono sciolti troppo presto. Sì. Purtroppo sì. Sì, hanno fatto tre dischi. Certo. Poi quindi sono... diciamo che l'ultimo posto, cioè l'ultimo slot, questa potrebbe essere o Rosemary Plexiglas oppure un disco degli After Hours. Non hai scelto i Marlene? Non ti piacciono? No, mi piacciono molto. Sì, mi piacciono molto. Però bisogna. Sì, sono cinque. Cioè, ci sono dei. Esatto. Purtroppo, dopo, per carità, adesso ci sono gli iPod, quindi purtroppo, iPod, sì, purtroppo un sacco di dischi. Sì, ci sono gli iPod. Positivo o negativo secondo te? Perché io sono a una certa età, quindi ho una certa polemica. Però, positivo, perché abbiamo tutto. Però negativo perché non c'è più la scelta, non c'è più un filtro, non c'è più niente. Abbiamo tutto. Sì, quello è un po' il rischio. Il rischio è quello di avere le discografie e non andare a cercare. Esattamente. Non c'ho più sofferenza nel cercare qualcosa. Abbiamo tutto. Dopo, dall'altra parte, però. Come Jimmy Page, prima parlavo. Bisogna sempre ricordare che la musica è una cosa meravigliosa. Quindi. Se questa cosa fa avvicinare anche i giovani, diciamo, alla musica, è vero che dopo magari ascoltano quello che vedono in televisione nei vari talent show, però cioè, bisogna prendere le cose positive di quello che è vero. L'iPod ha tanti aspetti negativi, la rivoluzione digitale di iTunes ha molti aspetti negativi, a partire dagli ascolti, le frequenze che ci tagliano, ma ormai non ce ne ricordiamo neanche più. Però dall'altra parte l'aspetto positivo è quello di diffondere la musica. È molto più facile, dicevamo anche prima, la tecnologia ci dà una mano anche con un piccolissimo investimento. È possibile, appunto, ognuno può prodursi la propria musica. L'importante è avere qualcosa da dire, e l'importante è anche riconoscere, andare a cercare dentro l'iPod le cose, dentro le migliaia di canzoni che ci possono stare in un iPod, qualcosa che ti può dare un'emozione. Chi tocca? Facciamo per ultima la Marta, Simone adesso. Sì. Io sono... Simone l'ha scritto sul libretto. Sì, esatto, non è proprio valido, però insomma... Stavo ci abbiamo concessa, dai. Esatto. Allora, io seguo la psichedelia in un... Un po' più vicino, Simone, sì. Leggermente. Io seguo la psichedelia sotto altri aspetti. Mm. Adoro i Tool. Nuova questa, sì, nuova forma di psichedelia. La nuova forma di psichedelia, non disdegnando naturalmente i classici, cioè esempio i Pink Floyd, Dark Side of the Moon, è una cosa che mi è entrata dentro e mi ha segnato profondamente. Poi i Primus sono musiche che non riuscirei a farne a meno. Credo da quando li ho scoperti, minimo. Come mai i Primus ti piacciono? Primo per la manualità di Les Claypool nel comporre, nel suonare, nell'utilizzare la formula dello slap con il basso, cosa che io sono assolutamente incapace. Sto iniziando adesso. Stai provando. Sto iniziando adesso il percorso accademico. Mi sono iscritto a scuola a marzo. Quindi dopo un lungo periodo, tempo, non buttiamoci giù del tempo. Assolutamente, sono 17 anni che suono e ho sentito adesso la necessità di procedere con qualcosa di formativo, perché mi mancava parecchie cose. E poi i Morphine. Ah, ecco, sono contento che tu hai citato i Morphine, perché è un gruppo sconosciuto per molti, non per noi, purtroppo, che abbiamo una certa età e qui in radio abbiamo trasmesso più di una volta. Purtroppo sono spariti, non esistono più. Purtroppo il leader se n'è andato, Mark Sandman, esatto, e se n'è andato in Italia, tra parentesi, sì, morto da noi, purtroppo. Esatto. Avevano un groove utilizzati da Verdone per le colonne sonore di film, erano bravissimi. Spettacolari da pelle d'oca, poi sassofonista abominevole. Sì, cari ascoltatori, provate a cercare i Morphine, che si trovano anche in linea economica, no? Per fare uno spot, perché è giusto, qua è un gruppo così straordinario, di grande valore, e misconosciuto dai molti. Cosa dici, Enzo? Io li ho conosciuti appunto tramite il cinema. Ecco, vedi, quindi, sì. Enzo è un grosso esperto di cinema, è qui presente, quindi grazie al cinema. Sì. Fatto bene Simone a citare. Esatto, sì. E poi l'ultimo che... Dimmi. Mi sento sotto. Siamo sempre pronti, no? Sì. E poi l'ultimo, penso l'abbiano pochissime persone. È una cosa, può sembrare pubblicità, ma non lo è. È il prodotto che ho registrato assieme a due amici di Milano. Una cosa indipendente? Sì. È venuto per gioco, ce l'ho nel sangue, non mi va più via. Ma non sai chi il gruppo? Sì, come... sì. Si chiamano, sì. Appunto. Si chiamano Mash Goons. Stefano, hanno inciso qualcosa? Abbiamo inciso la seconda volta che ci siamo incontrati, è solo jam session, quindi improvvisazione nuda, cruda, come si faceva una volta. Sì. Molto... Quindi ti è entrato nel sangue questo modo di far musica? Mi è entrato nel sangue, mi sono entrati nel sangue loro. Ah, ho capito. Perché sono due persone speciali per me, sono come due fratelli. Ho capito. E quindi... Ok, adesso tocca alla Marta fare le sue selezioni, 5 selezioni, e poi vedremo che selezioni. Beh, allora, dovendo immaginare di stare in un'isola deserta, ho pensato di portare tutto ciò che mi assomiglia, in modo tale che mi ricordo chi sono, perché se nessuno me lo fa presente. Quindi tutte le sonorità che mi fanno sentire a mio agio, che sono i Madre Deus, Ainda. Ah, come mai? Sei una delle pochissime persone in 10 anni, mi pare, Enzo, che facciamo Rock Wave, e soprattutto i live, che ha citato i Madre Deus. È puro sogno. Come mai Madre Deus? Perché lei ha una voce... Io non la pronuncio portoghese, come si dice bene. Ma credo Madre Deus. Ecco, perfetto, tu hai pronunciato perfettamente, dimmi. Beh, perché lei ha una voce magica, magica, morbida. Di accercatevi, sì. Facilitata forse anche da questa lingua, sì, che è bellissima, da chi la sa. Ovviamente rendere come lei, che ha questa voce particolare. Le atmosfere che si creano sono assolutamente rarefatte, belle, per cui io ci... Gruppo molto particolare, li ho consumati, potrei ascoltarli all'infinito. Perfetto. Me li hanno anche rubati tutti perché erano nella mia macchina, un bel pacchetto di CD, e mi hanno rotto il vetro, sparito. Sono spariti loro e un sacco di altre cose che non so più di avere. Ogni tanto scopro che non ce li ho e dico, ce li avrà qualcun altro. Vabbè, a parte questo, io direi un altro gruppo che ho consumato, i Radiohead. Ok, computer, ma... Tante volte. Potrebbe essere anche di Benz, insomma. Sì, Ok Computer. Diciamo Ok Computer. Quei Computer è il disco del grande successo mondiale, però hanno fatto tante cose prima e tante cose dopo, chiaramente. Sì, anche qui siamo a livelli di energia... che cresce, che dà moltissimo con questo cantante che per me Tom York è un mistero. Ma ho anche sentito l'anno scorso il disco solista, l'hai sentito? Quello è uscito recentemente. Sì, solista, ha fatto un nuovo progetto, insomma. È sempre lui. E poi direi Jeff Buckley, perché è inarrivabile. Ecco, Enzo, quante volte... Grace. Possiamo... Enzo è... Chissà non è quante volte che partecipa spesso alle trasmissioni, però ogni volta che ha partecipato Enzo, Jeff Buckley è stato citato. È venuto fuori, esatto. È una strana coincidenza, vedi. Ma Jeff Buckley rimane... Tutto si lega. È il discorso come Nick Drake, sai. Pink Moon non lo conosceva nessuno. Poi lentamente, progressivamente, la gente ha cominciato a conoscere questo genio incredibile, era Nick Drake. E la stessa cosa con Jeff Buckley. Jeff Buckley ha avuto questo, però... di possibilità, è stato rilanciato, è stato lanciato alla grande purtroppo da una specie di sitcom, di non so, uno sceneggiato americano che ha fatto, che la conoscono era Alleluia. Alleluia nella versione di Jeff Buckley, chiaramente non nella versione di Leonard Cohen, e quello è stato rilanciato alla grande, anche se Grace è un disco meraviglioso. I discografici della CBS della all'epoca dicevano che la prima stesura di Grace non ha venduto molto, poi con il tempo ha cominciato a vendere, la gente l'ha capito dopo, però l'ha capito, era un genio. Suo papà era un genio lo stesso. Suo papà era un grandissimo. Era diverso per suo aveva papà. Anche del... Sì, era molto diverso. Molto diverso, sì. Lì si vede proprio uno stacco generazionale. Però il però... DNA c'è. Beh, sì. E il DNA rimane, c'è assolutamente. C'è il genio. Il genio rimane. Sì. Quindi Jeff Buckley, poi? Paolo Benvenu, Herman. Ecco, cosa dici che la scelta di Paolo Benvenu? Beh, uno dei miei preferiti, per cui... Tra l'altro so che ieri era a Padova insieme a Fabio Cinti, mi sembra. Sì. Radio Sheriff, sì. Ed è un grande cantautore, insomma, io lo seguo dal tempo degli Scisma. Quindi? Esatto, e quindi è l'ultimo album che ha fatto, mi sembra. Sì. Io forse sono più legato, cioè, sono legato anche a quelli precedenti, ma anche Herman è un disco molto bello, sì. E dobbiamo dire che è un grande produttore anche lui, Paolo Benvenu, un grande produttore, un grande accentratore di talenti, possiamo dire anche questo. Bravissimo. Sì, sì, sì. Io lo adoro e mi piace molto la sua energia. Poi d'origine nostra, perché d'origine di Jesolo praticamente. Non lo so, sì, non so, però potessi avere la sua forza e la sua energia. D'origine veneta. E la prenderei subito. Però in ogni caso è molto bravo, molto interessante. Bravo, sì. Perché fa tutte le cose strane nel senso positivo. Ricercate, fate con molta testa. Con molta testa, esattamente. Sì. E poi mi spiace scendere nel... Per cosa? Nel banale, ma mi dovrei assolutamente portare un CD anni 80, di quelli, gli anni 80 più beceri però. Come più beceri? Cioè non quelli, insomma, della musica inglese di un certo livello, parlo proprio sorpresa. Di Alberto Camerini. Maurizio, qua difendi. Non dobbiamo difendi. Parlare di becero Camerini, se citiamo il Camerini dei primi dischi, che è un'altra cosa. Camerini, cara sì, Marta, vabbè, ha suonato becero, nei primi album di Finardi, è un sì. chitarrista straordinario. Dopo, che tutti lo ricordano come Tanz Bambolina, ma non vuol dire niente. All'inizio di carriera faceva cose meravigliose. No, no, il gioco degli anni Ottanta, assolutamente, perché è proprio DNA per me, insomma. Era un chitarrista straordinario. Se tu senti, abbiamo ricordato Claudio Rocchi prima. Tutto l'insieme della musica, Claudio Rocchi era un po' più anziano di loro, però l'insieme della musica di Milano, c'era Camerini, c'era Finardi, cioè gente che faceva musica veramente di un certo impegno. Ricordiamo che la Radio Libera, libera veramente, l'ha scritta Finardi. Sì. La Radio Libera intendeva, oltre ad essere libera, intendeva libera di far musica come si deve. Questo voleva dire. No, ma infatti è stato un paragone infelice. No, sì, una citazione infelice. Mi riferivo, non so, a tutte le canzoni anni 80. Agli ultime cose che ha fatto lui. Ma non solo, solo a lui. Sì, potrei anni 80 in genere. Portarmene un sacco degli anni 80. Beh, Camerini è interessante. Hanno fatto parte della nostra adolescenza. Sì, certamente, certamente. Tu cosa dici, Enzo, su Camerini? L'ho visto l'anno scorso. Com'è cambiato rispetto a una volta? Leggermente. Leggermente cambiato. Leggermente sì, cambiato. Forse se lo ricordano, boh, forse più per queste ultime canzoni. Comunque, insomma, dal vivo a me è piaciuto. L'anno scorso al festival che hanno fatto al Parco delle Mura a settembre è venuto. E quindi, insomma, sì. Ricalca proprio quelli che sono stati gli anni 80. Certo, certamente. Sì, sì. Si è più legata a ricordi, insomma. Sì, sì, ovviamente. Te ne manca ancora uno, hai scelto tutti e cinque. Adesso non lo ricordo. Beh, facciamo un altro, dai, alla fine facciamo un altro, un'altra scelta. Modugno. Ecco, come mai Modugno? È sempre per lo stesso motivo dell'intensità, perché lui con una parola cioè spalanca un mondo, ha un'intensità che non si sa da dove provenga. È una magia, la magia, certo, della voce. Infatti questi che ho scelto sono tutti legati molto a, sì, alla dimensione così del testo e dell'espressività. Beh, Jeff Buckley nei live, ma anche Paolo Benvenu. Certo, nei live soprattutto Paolo Benvenu. Sono fortissimi, energia pura. E Modugno aveva un'energia nei live. Sì. Assolutamente. Sì. Ricordiamo che Modugno in America, nel blu dipinto di blu, Volare, nonostante tanti anni sono passati da quel giorno in cui lui arrivò nelle classifiche americane, in America è ricordato ancora per quelle cose qua. Ecco, sì. Vedi, eccolo qua. È ancora in voga in America. È ancora in voga in America, nonostante tutto. Ok, abbiamo finito la cinquina per tutti quanti. Adesso facciamo un momento di riposo. Sentiamo un pezzo da disco, così sistemiamo un'altra cosetta molto interessante. E che pezzo avete scelto della scaletta, ti ricordi? Domani. Domani. Ah, sì. Domani. Adesso lo sentiamo prima e poi ne parlate, sia nel testo sia nella musica, ok? D'accordo, grazie. Tomorrow. E se domani vorrà cadere, senza dire amore, senza dire amore, senza dire amore, la nostra perversione, senza dire amore, la nostra perversione. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23-26 minuti primi e poco più di 30 minuti ancora in compagnia di degli Elenoir. Maurizio. Beh, passo la parola a Enzo perché Enzo fa una domanda sul testo di questo pezzo. Esatto, questa canzone che abbiamo appena ascoltato degli Elenoir, Domani, è una canzone che, come anche Amore e Psiche, parla appunto di un amore difficile, che però, Marta, che evoluzione ha? No, è un amore difficile, ma è un amore che poi si risolve, perché quando si comprende che bisogna accettare l'altro così com'è, se si vuole amare veramente, insomma, amare veramente, alla fine gli amori si risolvono nella fusione di due anime. E viene sottolineata l'accettazione anche delle cose che non vanno, delle cose che fanno soffrire, che però se vengono comprese sotto un'altra luce, come proprio la diversità di anime che c'è, alla fine si realizza quello che secondo me è il vero amore, che è fatto anche di queste sensazioni forti e a volte dolorose, perché no, però che devono esserci. Perché siamo diversi e la diversità la dobbiamo accettare, se no non è vero amore, non è vera compressione, non è un abbraccio totale, ma è ancora un compromesso. Senza compromessi, per me l'amore deve essere senza compromessi. Musicalmente non è un compromesso questo pezzo, caro Alessandro, però secondo me è leggermente meno potente rispetto a Amore Psiche. Assolutamente sì, questa canzone dal punto di vista musicale ha fatto un po' fatica a decollare. Come mai ha fatto un po' fatica? Tant'è che all'inizio scherzavamo un po' sopra con Marta e diciamo questa è la canzone per Sanremo. Ah, perfetto. Quindi sì, è una... appunto è nata... Una ricerca della melodia rispetto a Amore Psiche. Esattamente, è molto più una ricerca della melodia... Questa versione in particolare è una versione live, è stata registrata proprio durante un concerto e qui è stata incattivita, diciamo così, con questa chitarra che entra subito, quasi subito, sì. per renderla molto più cattiva. Ma d'origine era un po' diversa allora? All'inizio sì, era molto più melodica, era proprio una canzone per Sanremo. Beh, quindi era sì, si poteva anche una essere. Cosa, sì, sì. E quindi diciamo che è un po' rimasto un po' a metà, quindi non ha l'energia di altri pezzi, non ha l'energia di Maglietta Blu, non esplode, non è una canzone che esplode, c'è una ricerca molto di più della melodia e rimane un po' più, se possiamo dire, un po' più pop, ecco. Ma la ricerca della melodia è da escludere nel panorama della band nel proseguo? No, oppure no, oppure la ricerca della melodia c'è ancora? Assolutamente. Deve venire fuori? Sì, sì, sì, sì, sì. Assolutamente è una cosa da ricercare. Su qualche... Si avvicina alla voce di Marta in alcuni momenti? Sì. Beh, Marta sì, può limitare il suo vocalizzo. Su questo disco qualche pezzo è nato di notte, tipo le tre di notte. Invece i pezzi nuovi che abbiamo nel cassetto, che avete già fatto, diciamo che c'è una ricerca, scusami, vagano nel cassetto, ricerca molto più importante della melodia, e a quel punto la Marta entra molto più potentemente nella fase di creazione della melodia, cosa che invece magari su questi pezzi è stata fatta un po' più più da me, insomma, quindi ed è importantissimo che venga sviluppata con le sue capacità vocali, con dove può arrivare lei, non tanto dove posso arrivare io, perché io non vado da nessuna parte da quel punto di vista. Cosa dici di questo discorso interessante che ha fatto Alessandro? No, molto interessante, nel senso che appunto forse questo brano rispetto agli altri, vero, ha questa vena un po' diversa, sì, vero? Sì, è leggermente sì. Non dico sfocata, è una brutta espressione, è leggermente fuori dal coro, anche se però l'idea di questi 4-5 pezzi che vagano nel cassetto, può darsi che sia uno sviluppo, può darsi che le tue doti vocali melodiche possano uscire. Sì, ma io... Perché tu ce le hai, doti vocali melodiche, anche se poi... È la canzone dove mi sento più a mio agio. Quando la canto è la canzone che mi fa sentire a mio agio. Perfetto. Per cui avete detto esattamente quello che è... La realtà di come sono nato. Perché riesci anche, io ho notato, mi pare un pezzo, due pezzi fa, che riesci anche ad arrivare al falsetto, che non è mica semplice arrivare al falsetto. A me il falsetto piace particolarmente, non so, lo ripeto un sacco di volte, ma quando una ragazza o un vocalist maschio intona il falsetto, mi piace molto. Perché il falsetto è difficile, però è molto caratteristico, molto colora il pezzo. E tu usi il falsetto in un pezzo, mi pare, prima l'hai cantato. Cenere. È difficile, però, è complesso, è anche rischioso per un vocalist. Sì, è rischioso il passaggio. È il passaggio, se perché la gente, torni a una tonalità piena, sì. Ed è, ripeto, abbiamo già detto un sacco di volte, quando si suona acustico è molto più difficile che suonare elettrico. Sì. Perché l'acustico non si può sbagliare, non è coperto, l'elettrico sì, è coperto. E c'è poco da fare, e uno, se vuole imparare a suonare, deve suonare acustico, dopo suona elettrico. Ma prima, io ho letto, stavo leggendo il libro di Keith Richards, Life, quel famoso libro che ha fatto 2 anni fa, e lui ha detto che ha imparato prima a suonare l'acustica e poi è arrivato all'elettrica, perché doveva imparare i pezzi di rhythm and blues all'acustica. Rhythm and blues nero, i Rolling hanno il rhythm and blues nel sangue, e perché l'acustica è difficile. L'acusticità, suonare in acustico in una radio è difficile, cari ascoltatori, non è semplice, è complesso, secondo me, io la vedo così. Assolutamente ci stiamo d'accordo. Provando d'accordo a pieno. Caro Gil, caro Maurizio, io direi, se vogliamo fare ascoltare, perché abbiamo poco più di 30 minuti, abbiamo ancora tre brani da CD e poi abbiamo ancora qualcosa del live. Allora facciamo sentire subito un pezzo da allora CD. Passiamo dal live e vi mando un jingle. No, va facciamo bene. Un live allora. Sì, facciamo live. Alterniamo, abbiamo detto, no? Un CD e un live. Perfetto. Trattiene ti sento e ti sento. Anche se domani stai sotto al sole con i tuoi guai, fuori il traffico che sai, sorpassi sguardi trasognati, chiedimi più di quel che ho, chiedi di più di quel che sei, il sole che c'è splenderà anche se non coglierai fiori per me, anche se la mia ruggine causerà scompiglio come un miliziano nell'alba di vita. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Rock Wave Live, assolutamente, questa era live al 100%. Questo blues malato al finale, aveva un blues malato secondo me, Alessandro. Sì, sì, sì, questa è una delle canzoni nel cassetto che, che stiamo... Sta nascendo e... E ancora non sappiamo dove andrà, però secondo me ha cominciato a volare, insomma, questa canzone. Esattamente, in finale era un blues, ripeto, malato, perché mi ricordava, non li abbiamo citato, i Thin White Rope, te li ricordi? Vagamente. I Thin White Rope, gruppo che non esiste più, a proposito dei Morphine, avevano questa caratteristica di queste lunghe... finali lunghi in cui approdava il voglia di blues malato, e questo pezzo qua c'era un blues malato, un pezzo, come si chiamava? Si titolava? Sì, e fa freddo, che non fa parte del disco praticamente, no. È una new entry assoluta, sì. Assoluta. Il testo? Il testo veramente sì, è stato un po' casuale, è nato così, accostamenti di, ancora di sensazioni e di immagini. Ma no, anche questo è un pezzo... Non c'è ordine nel mio disordine. Ho capito. E poi è sempre una persona che è bloccata da qualcosa, il guardiano del fuoco, delle soglie della regia, a volte mi trattiene. Mi viene in mente la tradizione popolare di quel mostro, che adesso non mi ricordo come si chiama, che blocca i bambini, blocca la possibilità ai bambini di rientrare a casa la sera. E quindi sì, è una persona che non è risolta. Ho capito. Bazzica di more da sfratto, significa che non ha una casa, sostanzialmente, non ha un'identità ancora definita. Ma musicalmente aveva un'identità assolutamente definita, questo fortuna. Pezzo. Anche poi, se è nel cassetto, poi sì, dimmi. Poi niente, c'è questo finale dove c'è un po' una rincorsa, esatto, dove si parla del sole che c'è comunque, anche se le persone si dimenticano di te a volte, con delle attenzioni che tu ti aspetti di ricevere, però si continua comunque la propria vita, le proprie emozioni, quindi sì. Poi c'è il basso che Simone... Continuo giro di basso di Simone, continuamente che scavava. Non è così, Alessandro? Sì, qui il basso praticamente tiene la canzone. Tiene la canzone, esattamente. Tiene la canzone con questa minima base, con i tom. Esattamente. Però qui il basso che prende la canzone e la fa volare. E la chitarra ci gioca sopra, appunto con blues finale. Con quel blues. Enzo, come lo potresti sentire dal vivo un pezzo simile sul palco in quattro? Questo infatti è una domanda che volevo fare agli Alien Noir, visto che insomma li stiamo ormai apprezzando dalle 10, insomma, queste bellissime canzoni. Volevo chiedere quali sono i prossimi appuntamenti per seguirvi proprio dal vivo in concerto. Ricordiamo che dal vivo ci sarà anche l'aggiunta della batteria, sì, quindi ancora un sound più efficace. Decisamente. Sì, il 26, mercoledì, saremo all'interno della rassegna Sugar Pulp, però la sezione di Schio, che hanno iniziato a lavorare molto bene da un po' e stanno proponendo questo festival che è Sugar Pulp Schio, dove vengono proposti scrittori di questo movimento, graphic novel, fumetti e un sacco di iniziative, La pelle dell'orso di Matteo Righetto, ma sono un bel gruppo che lavora molto bene. Ci hanno proposto di fare una serata dove sì, ci sarà una sorta di intrattenimento degli ospiti. Allora noi ci proporremo nella versione gruppo con anche Simone Tognolo e Maurizio Isoli, e aspettiamo di fare questa cosa, insomma. E sarà a Vicenza, a Sant'Orso, all'interno di Villa Rossi. E questo è il prossimo appuntamento. Poi stiamo cercando qualche data qui a Padova, però sì, con cautela, perché c'è molta carne al fuoco e stiamo cercando di mettere insieme la band e anche di continuare con l'elaborazione di qualche pezzo. Quindi, siccome tutti lavoriamo e siamo molto impegnati, ci cerchiamo di rosicarci i tempi che restano per poter lavorare sui pezzi, perché richiedono un'infinità di tempo, insomma, e di concentrazione, di energia, ecco. Esatto, di tanta energia. Ho notato, non so se sei d'accordo, se sei d'accordo Enzo o Gil, ci sono qualche riferimento letterario nei tuoi testi, qualche rincorsa letteraria nei tuoi testi, assolutamente. Abbiamo citato Buzzati all'inizio con Barracuda, ma non solo Buzzati, qualche altro, sempre non propriamente detto, però qualche piccolo flash, sì. Forse inconsapevolmente, sì, inconsapevolmente. Dalle tue letture. Sì, beh, inconsapevolmente ci sarà Montale. Ecco, esattamente. È lui, insomma, quello del vuoto dietro di sé, della verità che non si raggiungono. Ma è una cosa positiva, assolutamente. Delle verità che non si... Sì, è una cosa positiva, perché la ricerca della verità è fondamentale, della verità di ciascuno di noi, che poi può essere trasmessa al mondo attraverso l'arte, però è una verità faticosa che, se poi ti prende, è una ricerca che non finisce mai per qualsiasi artista, per qualsiasi forma d'arte. Certamente. È una ricerca continua, è la verità, sì, quella con la V maiuscola, che ha moltissime sfaccettature, che non si può neanche definire che verità sia, però è un po' pungere continuo che ti porta a dire cosa scrivo, che melodia cerco, che musica ho nella testa, che parole ho nella testa. Anche fa freddo, scavo in cerca di parole l'impronta della mia magia, come se il fatto di non trovare delle parole ti allontanasse da te stesso. Certo, certo. Cercare le parole. Qui mi viene in mente PJ Harvey, però mi viene in mente la maestra di PJ Harvey, che è Patti Smith. Patti Smith. Assolutamente Patti Smith. Quella... una cosa da paura. Esattamente, una cosa da paura. Ne sanno qualcosa quando è andata a Sanremo 2 anni fa, che l'avete visto, però certamente hanno calcolato in quei 5-6 minuti assieme Marilyn Kunz e Patti, l'indice, brivido. Esatto, l'indice gradimento è volato altissimo, e mica è conosciuta da tutti Patti Smith. No, tutti no. La conoscono per Because the Night, perché è Rai, cioè Rai 3, terza rete della Rai di notte, cose mai viste, famosa certo. Sigla, e c'è il famoso discorso, no, di ma è Because potere the Night. Ma è la forza di persuasione di questa donna incredibile, c'è poco da... sì, il potere. La prossima canzone è da CD, sì, è l'unica canzone che voi in pratica avete cambiato qualcosa all'interno di questo testo in italiano. Stiamo parlando di Black Clouds. Sì, il testo di questa canzone è stata scritta da Valentino Del Simone, che oltre a essere un amico è anche il frontman, diciamo così, leader del progetto dove io suono la batteria, che il progetto si chiama Eva Zero, e quindi sicuramente ci stanno ascoltando, quindi salutiamo. Li devo salutare. Certo. E questa canzone è stata scritta in un periodo un po' particolare, e quindi diciamo che era stata prodotta da me nelle prime fasi, quindi è stata in qualche modo riproposta con la voce di Marta, togliendo un po' di elettronica e aggiungendo un po' più di chitarra. Quindi questa è una questa canzone è un po' il passaggio di unione da progetto elettronico al rock, e questa è una canzone a cui tengo particolarmente, proprio perché appunto è stato un periodo un po' particolare. Io ho contribuito a tradurla in italiano, in inglese, perché questa è nata in italiano e è stata tradotta in inglese. Benissimo. Dicono, a volte si dice, no Maurizio, dopo ne parleremo quando ritorneremo in studio, che a volte c'è la necessità anche di cantare in lingua inglese, quindi ascoltiamoci questo brano e poi ne parleremo. I'm still waiting. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:51, Gil Facchinelli alla regia, Maurizio Calzavara, Enzo Mosca in vostra compagnia, ma soprattutto in compagnia di Marta Savoldo, Simone Toniolo, Alessandro Crivellaro, che sono gli Eleonor. Voglio prendere in contropiede questa volta Enzo. Che mi dici, Enzo? Hai trovato qualche differenza nella versione così in lingua inglese dalle precedenti? Sì, beh, diciamo che forse l'inglese è una lingua, possiamo dire, più semplice, ecco, da trasmettere in musica. Questo infatti volevo chiedere agli Eleonor. Sì. Rispetto all'italiano, certo. Insomma, sì. È più semplice anche vocalmente, perché si presta molto di più, si sa, no? La sonorità si presta molto di più a delle aperture. Cantare in italiano è molto più complesso e richiede infatti una ricerca molto difficile, che sto ancora facendo, non chissà quanto tempo ci vorrà, insomma. E invece Alessandro, come possono fare i nostri amici che ci stanno ascoltando per avere il vostro CD? E poi ti chiedo anche quali sono i vostri riferimenti, ad esempio Facebook o sito. Sì, allora il disco è scaricabile in forma digitale su elanoir.bandcamp.com ed è possibile richiedere la versione fisica, quindi con il classico CD, inviando una mail a info@elanoir.it e basta. Arriva. Dunque adesso abbiamo deciso di fare questo, caro G, cambiamo sempre la scaletta. Esatto. E anche su, giustamente, Enzo ha detto, quel pezzo che adesso fanno dal vivo a me è piaciuto particolarmente, adesso lo facciamo dal vivo, vero Marta? Abbiamo deciso, sì. Abbiamo spinto la band. Abbiamo trovato un buon compromesso. Democraticamente, esatto. Siamo spinti. Che cosa ci fai sentire adesso? Dal vivo, pezzo, assolutamente live. Un pezzo degli After Hours, quello che non c'è. Perfetto. Questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola mi spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Ho perso il gusto, non ha sapore quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Arriva l'alba o forse no, a volte ciò che sembra alba non è, ma so che so camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. Vuoi la scelta, vuoi il controllo, rivoglio le mie ali nere, il mio mantello, la chiave della felicità e la disobbedienza in sé, a quello che non c'è. Perciò io maledico il modo in cui sono fatta, il mio modo di morire sano e salvo, dove m'attacco, il mio modo vigliacco di restare sperando che ci sia quello che non c'è. Curo le foglie, saranno forti se riesco ad ignorare che gli gli alberi son morti, ma questo è camminare alto sull'acqua e su quello che non c'è. Ed ecco arriva l'alba, so che è qui per me, meravigliosa come a volte ciò che sembra non è, fottendosi da sé, fottendomi da me, per quello che non c'è, per quello che non c'è, per quello che non c'è, per quello che non c'è. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Possiamo dire brava Marta, esatto, ma bravo Simone, bravo Alessandro. Bravissimi. Pezzo difficile, però esatto. l'hai interpretato bene. Sicuramente Manuel sarà stato contento. Sta seguendo sì, sicuramente. Sarà stato contento. Bene, abbiamo quasi finito, 23:58, quindi ci siamo. Dopo 2 ore di cavalcata, è stata una cavalcata positiva, assolutamente. Sì, assolutamente. Siete molto ospitali e anche bravissimi a mettere a proprio agio le persone, quindi vi ringraziamo moltissimo per questa occasione. E quindi, oltre che per il fatto che abbiamo potuto farci conoscere un po' dal pubblico, anche perché siete delle persone splendide, assolutamente da conoscere. Grazie. E da frequentare. Ma lo spirito della musica che unisce, rock sì. Wave live, che unisce da tanti anni. Noi facciamo musica perché è giusto, la radio ha questa funzione, far sentire musica senza tanti giri di parole, musica con la M, basta. Quello è il messaggio che noi lanciamo e continuiamo a lanciare e continueremo a lanciare sempre fino che chiaramente avremo le possibilità, quindi, ma avremo tante possibilità, cosa dici? Esatto. Tra l'altro concludiamo con un brano nuovo, sì, degli una new entry assoluta, per noi non l'abbiamo mai sentito, e Marta diceva mentre un pezzo andava da disco, ma facciamo questo o non facciamo questo, però voglio fare questo perché mi sta dentro, cioè è un pezzo importante, non è così Marta? Sì, è un pezzo molto descrittivo, direi, e racconta una giornata trascorsa e si intitola Majorette. Gil, ci siamo. Maurizio, sì, io volevo ringraziare, se non mi sbaglio è la prima intervista anche tra radiofoni. Sì, è la prima. Siamo stati bravi. Siamo un po' legati. Bravissimi. Siamo stati bravissimi. Sicuramente grazie. Bravi. Ci abbiamo i laccetti legati. Speriamo di portarvi veramente tante buone cose in futuro prossimo. Comunque, vabbè, siamo giunti alla fine, Maurizio. Allora, ringraziamo prima di tutto il nostro ospite che è Enzo Mosca. Grazie a voi. Guest star stasera, Enzo, esattamente. Grazie a voi delle... Non è la prima volta, vieni qualche altra volta, chiaramente. Quando ci sono gruppi rock, io sono sempre presente. Esattamente. Grazie. L'enciclopedia vivente, hai sentito che prima anche Alessandro, anche lui ti ha chiamato enciclopedia vivente. Ma non sono un'enciclopedia vivente, faccio parte dello staff di Blue Radio Veneto e basta. Noi siamo la musica, è la musica. Ma è questa. Ognuno ha la sua caratteristica, Agostino la sua, certo, Alberto la sua, e la mia, e tu hai quella dell'enciclopedia ormai. Ma mi dicono anche Nonnetto Agostino, capito? Meglio enciclopedia. Esatto. Che penso sia anche l'ascolto, lo salutiamo, ciao Ago. A proposito, domani con Ago... Alle ore 21 ci sarà un live di Irena Ghiotto, che è una ragazza, una musicista di Vicenza. È stata a Sanremo, ma non è perché è stata a Sanremo che viene qua, perché ha proposto e propone un disco abbastanza importante, difficile, diverso. Non è un disco sanremese, e questa è una cosa positiva, secondo me. Al di là che con Fazio e la coppiata Fazio e l'ex leader della PFM, è una coppiata abbastanza interessante. Bene, oltre a ringraziare anche quindi Alberto Prisco che ha organizzato questa serata. Assolutamente. Vogliamo ringraziare quindi una volta gli Lenoir, partendo dovere assoluto da Marta Savoldo, la voce del gruppo. Grazie a voi. Da Simone Tognolo al basso. Grazie mille, ragazzi. Da Alessandro Crivellaro alla chitarra. Grazie. E salutiamo anche il prossimo componente che sì, Maurizio Isoli. Ciao Maurizio Isoli. Alla batteria. Alla batteria, ovviamente. Quindi grazie a tutti, alla prossima, e vi lascio alla voce degli Elenoir. Elegante, disequilibrio e seguire i tuoi occhi, le maggiorezze in un asfalto impietoso, e tieni il tepore delle foglie secche lungo il muro, togli i miei discorsi inutili, cancella un sogno di farfalle multicolori. Mio padre, che non sapeva leggere, un pittore di strada e le comparse intorno a noi. Tieni il bordo, scavo da insicuro di quel fiume, conserva i sassi incollati sui pali delle mani e i coriandoli, se li hai trovati, che non sono mai perfetti, e le parole prese a morsi, il tuo regno mi spaventa. Il più bel sogno tra noi, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tieni le scarpe impolverate, lo sguardo di chi ha visto esplodere la gioia, le mani trascurate, l'interezza che non c'è il mio, vagare nella luce stregata da un groviglio di strade, stregata da un groviglio di strade, mi fa impazzire l'idea che tu possa stare male, togli discorsi sul tuo gatto e quelli che ho salvato nel mondo, tieni il labirinto dentro noi, il labirinto dentro noi. Spaventa, dimmi che era già dentro di me come un sogno più grande di noi, e non perché sei tu il più bel sogno tra noi, e non perché sei tu il più bel sogno tra noi, e non perché sei tu il più bel sogno tra noi.